Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Puntualissimi, buonasera a tutti da Gilles Facchinelli, dai microfoni di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Io mi racconto. Allora, questa sera, sesta puntata, diamo spazio ancora una volta alla musica, emergente. Questa sera un ospite al femminile. Lei è di Macerata. Dal 5 ottobre è uscito il suo singolo Ripartire da Zero. E allora benvenuta a Radio Cooperativa e a Rock Wave Live, Io mi racconto, a Laura Cervini. Ciao Laura! Ciao, buonasera a tutti! Benvenuta e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora Laura, qui ormai ti vedo lanciatissima nelle radio. Quante interviste avrai fatto fino dal 5 ottobre ad oggi? Le hai contate? Un bel po', il numero non lo saprei. Però abbastanza, un bel numero. Allora, senti Laura, iniziamo un po' a conoscerti. Intanto da dire da dove sei. Tu sei nata a San Severino, che è nelle Marche, provincia di Macerata, ma la tua vita ruota in pratica attorno ad un borgo bellissimo di 6.500 abitanti, che si chiama Pollenza, che è sempre a Macerata. Un paese che poi sono andato a vedere ha origini antichissime, perché esisteva, pensate, già da prima dell'anno 1000. Ci racconti qualcosa del tuo paese, che è bellissimo. È un borgo molto carino, ha tanti vicoli molto, molto suggestivi, carini, certo. Con queste casette a mattoncini. Esatto. Sì, è piccolo ma è molto carino, ci fanno anche delle belle manifestazioni, sia in inverno che in estate, sì. Sì, certo. Sì. Tra l'altro c'è un teatro comunale, ho visto, molto coccolo, bellissimo, il teatro comunale Giuseppe Verdi. Sì, sì, è molto carino, sì, non ci avevo pensato, sì, è molto carino e ogni anno fanno la stagione teatrale, ci vengono anche personaggi, diciamo, famosi, conosciuti, sì, è vero, fanno moltissimi spettacoli, sì. Tu non hai ancora cantato in quel teatro? Purtroppo no, non ho avuto questa occasione, però sarebbe bello un giorno. Penso proprio. Mai dire mai. Mai dire mai, anche perché la voce, le qualità le hai, vedrai che penso che presto sicuramente il tuo paesino in qualche maniera ti darà un pochino di spazio. Sì, sì, comunque ho cantato in altri teatri, ma quello del mio paese ancora no. Quando ho fatto il Giro Tondo Show, uno dei più bei concorsi, ho girato vari teatri della provincia di Macerata, ma purtroppo in scaletta non c'era Pollenza. Sono andata lì vicino a Treia, che è pure un borgo molto carino e il teatro pure molto bello, però Pollenza purtroppo non ho avuto ancora questa occasione. Raccontaci del tuo percorso musicale, Laura. Sì, io sin da piccolina, penso come tantissimi altri cantanti che amano la musica, cantavo dentro casa, dentro casa, timidamente, e mi sarebbe piaciuto fare la cantante, ma ero così timida che dicevo, ma non ce la farai mai, ma dove vai, ma cosa farai? Invece dopo, successivamente, anche all'inizio mi sono iscritta a studiare chitarra. Successivamente, anche grazie a mio padre, mi ha detto, ma perché non canti? Dico, ma perché questa cosa l'ho lasciata così nascosta? E da lì il canto, dopo ho preso il sopravvento, ecco, è diventata la mia passione più grande, ecco. Certo. E poi da lì ho fatto i provini di X Factor, Castrocaro, Aria Sanremo. Che poi ne parleremo, non bruciarmi questa domanda, sì, perché poi te lo chiedo. Sì, e come dicevo prima, uno dei concorsi più belli della nostra zona è stato quando abbiamo girato i teatri della provincia di Macerata, soprattutto verso la montagna, è stata una bellissima esperienza cantare live con una band, è stata veramente una bella esperienza, molto molto emozionante. Come si chiamava la, o come si chiama la band? Girotondo Show. Girotondo Show, sì. Che sono, è un gruppo di amici. Ho un bellissimo ricordo. Diciamo che siamo rimasti un po' in contatto, ormai sono passati un po' d'anni. Che bello ricordarlo comunque. Come no, sì sì, è stata sia per la mia famiglia che per me è stata veramente una bellissima esperienza, sì. Allora, formativa. Io direi di fare ascoltare il tuo inedito e poi inizieremo un po', ti farò un'altra domanda appunto su Area Sanremo. E poi entreremo un po' nel tuo mondo, nella tua canzone, nella tua musica, ok? Va bene. Allora ascoltiamoci Ripartire da Zero, lei è Laura Cervigni. Io non mi volto, aspetto ancora il sole, milioni di passi, non mi stancherò mai, porto in braccio i sogni miei. Io ci credo ancora e perdono ogni cosa adesso, senza più un compromesso, e riparto da qui. Alla pace che non ho avuto mai, ritorno in scena come gli eroi nel vento dell'aurora, e perdono ogni cosa adesso, senza più un compromesso, e riparto da qui. Parto adesso sulle ali di ogni lacrima. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora Laura, tu ci stai ascoltando o sei solo al telefono questa sera? No, sto soltanto al telefono, sennò ho paura di fare casino. Sì, sì. Allora, senti, qui abbiamo una bella musica, un buon sound, un bel testo e un bel ritornello. Allora, prima di entrare nella tua canzone, ti volevo chiedere un po' della tua esperienza che hai fatto appunto in Area Sanremo nel 2016. Con questo brano? No, l'ho fatto con un altro brano. Questo brano era dedicato a mio padre. Aria Sanremo è stata veramente, potrei dire forse la più bella, però diciamo che l'ultima è sempre la più bella. Potrei anche dire che l'esperienza più bella è anche questa, perché finalmente sono riuscita a portare un singolo, diciamo, su tutte le radio. Comunque, ritornando ad Aria Sanremo, sono stati veramente dei giorni molto belli. Ho conosciuto un sacco di persone, ho visto un sacco anche di cantanti affermati, perché c'erano degli stage. Sì. È stata veramente una bellissima esperienza. Sì. Ci sono andata anche insieme a un'altra ragazza, abbiamo fatto questo lungo viaggio in treno, sembrava di non arrivare mai. È un'esperienza che comunque porterò sempre nel cuore, anche quella, ecco. Allora, volevo chiederti, testi e musica a chi appartengono? Del brano di Aria Sanremo? No, questo l'abbiamo ascoltato adesso. Allora, il testo e la musica sono miei. Dopo mi sono fatta aiutare, diciamo, sono andata su uno studio di registrazione dalle mie parti e mi sono fatta un pochino a aiutare per trovare al meglio, diciamo, per trovare il miglior arrangiamento, ecco, certo. L'arrangiamento migliore, ecco. Certo. Ci tengo particolarmente perché è il mio primo singolo ufficiale, soprattutto il testo per me, il testo di questo brano ha moltissimo significato, ecco, per quello che... Adesso ci entriamo nel testo. Che trasmette. Allora, visto che ci siamo, parliamo anche del testo. Io vorrei partire da qui, una frase del tuo testo, appunto. Ambisco alla pace che non ho avuto mai, torno in scena come gli eroi. Un chiaro messaggio di ricerca di serenità, credo, no? E da qui si capisce che è anche totalmente autobiografico. Raccontaci un po' da dove è iniziato il tutto. Allora, diciamo che credo ogni essere umano sulla faccia della terra, credo che comunque viene un po' condizionato dall'infanzia, dall'educazione, sì, che ha ricevuto, dai condizionamenti. Quindi questo brano vuole essere una sorta di rinascita, come posso dire, per finalmente, come dice anche un pezzetto del brano, per finalmente essere me stessa, non condizionata dagli altri, ma diciamo una laurea diversa, che sa quello che vuole, sa finalmente cosa significa essere libera, essere, certo, felice, certo, che può scegliere liberamente come vivere la propria vita, ecco, ripartendo da zero. E quindi hai ritrovato questa serenità, questa ripartenza, Laura? Allora, diciamo che ovviamente non si può ripartire da zero in un giorno, quindi diciamo che questo brano è un po' un augurio, è una sorta di svolta alla mia vita, ecco, come se fosse uno spartiacque, ecco, tra la mia vita vecchia e questa vita nuova che voglio, non si finisce mai di imparare, quindi riparto da zero giorno dopo giorno. Assieme alla tua canzone, appunto Ripartire da Zero, è uscito in contemporanea il 5 ottobre, se non sbaglio, giusto Laura? Sì, venerdì 5 ottobre. È, sì, uscito appunto il video, che potete trovarlo su YouTube, basta cliccare Laura Cervigni oppure Ripartire da Zero, in automatico YouTube vi porta a questa canzone. Credo sia anche la prima esperienza come video, no? Raccontaci com'è andata, dove è stato girato. Sì, è stata la primissima esperienza. Allora, l'abbiamo girato tutto in un giorno, è stata una faticaccia assurda, però merita. Ringrazio tanto Mattia Muccichini, è un ragazzo di Ascoli Piceno, mio coetaneo. Lui ha pensato un pochino a come impostare, diciamo, dopo aver ascoltato il brano, ha pensato un po' a come impostare, diciamo, questo videoclip. Ci siamo alzati alle 3 di notte per uscire ad acchiappare l'alba sul Monte Conero, che ovviamente è stupenda. Sì, e da lì abbiamo iniziato a provare, a girare, a fare un sacco di scene, poi ci siamo spostati dal Monte Conero, siamo andati a fare delle scene alla stazione di Ancona, poi ci siamo spostati verso le mie parti, abbiamo fatto delle scene a casa mia, altre scene nei vicoletti di Pollenza e un altro viale pure che si trova sempre, diciamo, non proprio a Pollenza, ma nei paraggi, ecco. Certo. Allora, Laura, il 2018 hai chiuso con il tuo singolo, il 2019 invece cosa ti aspetta? A livello musicale? A livello musicale, sì. Allora, io spero che ci possano essere, io spero molto di che ci possa essere in futuro un album tutto mio, oppure anche solo un singolo, però la mia prospettiva è di poter fare un vero e proprio album, ecco. Quindi incrociamo le dita. Intanto comunque è una grandissima soddisfazione per me aver portato su tutte, diciamo, su tutte queste radio il mio primo singolo ufficiale, ecco. Come dicevo prima, è molto importante per me questo brano, ecco, per quello che vuole trasmettere. Certo, quindi questo è un primo tassello, poi se ne aggiungeranno. Vai avanti con qualche altro singolo o da qui passerai subito a un album? Ma per ora continuo con queste interviste, poi casomai vediamo un po' come si mettono le cose, ecco. Certo. Sì. Certo, e potranno ascoltarti dal vivo da qualche parte, magari nelle tue zone, intanto delle Marche, Umbria, Toscana, quelle zone lì? Per ora non ho live, però spero prossimamente dal 2019 di avere, diciamo, più possibilità. E questo, sono molto impegnata con queste interviste. Certo. Quindi sono molto concentrata, certo, su questo primo brano, ora come ora, ecco. Poi comunque avremo il buon Andrea, che poi saluteremo e ringrazierò, che sicuramente ci terrà informati dei tuoi prossimi passi. Come no, sì, certo. Allora, mi dicevi anche che sei una persona molto creativa. Oltre alla musica, di cosa ti occupi, Laura? Allora, oltre alla musica, sono laureata, ho fatto il liceo artistico e poi ho preso la laurea all'Accademia di Belle Arti di Macerata in grafica, però ora come ora diciamo che lavoro nella ditta di famiglia che si occupa di tutt'altro, quindi diciamo sono due ambienti un po' opposti, ecco. E Laura, diciamo anche dove si può ascoltare la tua musica e dove soprattutto ti si può trovare nel mondo internet? Sì, allora, per quanto riguarda i social, mi potete trovare su Facebook, ossia il mio profilo personale che è la mia pagina diciamo dedicata. Sì. E poi anche il profilo di Instagram. E poi potete trovare su YouTube il videoclip del mio primo singolo ufficiale. Certo, c'è proprio una pagina tua su Facebook, Laura Cervigni, dove appunto... Sì, c'è proprio la pagina, ecco, sì. Lì sì, basta sì. Cliccare mi piace, entrate nella sua pagina e poi sì, ci saranno a mano tutti gli aggiornamenti. Sì. Ecco, e allora Laura, noi siamo verso la fine e innanzitutto voglio ringraziare l'ufficio stampa Chiasso, Andrea Rinaldi, che mi ha dato la possibilità di poterti contattare e di far conoscere la tua musica, ovviamente. Certo, sì, lo ringrazio anch'io, Andrea. Si dà molto da fare, Andrea, veramente per la musica, un grandissimo appassionato. È il suo lavoro, ma è un conto è fare il lavoro perché devo farlo, è un conto è farlo per lavoro, ma con grandissima passione. Questo è Andrea. Sì, c'è una bella differenza. Certo. Allora, Laura, vuoi fare dei ringraziamenti o saluti particolari legati alla musica o anche dire qualcosa che non siamo riusciti a dire questa sera, che magari ti piacerebbe dire prima di chiudere la trasmissione? Che domanda, mi trovo impreparata. È no, bello anche questo, prendere un po' di sorpresa. Sì, certo, sì. No, comunque ringrazio nuovamente Andrea perché mi ha dato una bellissima opportunità spero che ci stia ascoltando. E ringraziamenti particolari, spero di non essere presuntuosa, però ringrazio me stessa perché sono riuscita, come posso dire, a fare quello scalino, perché per riuscire a fare questo ho dovuto accantonare la paura e avere un atto di coraggio che non, quindi, è facile, che non è facile per niente. Mm-hmm. Quindi per una volta voglio dare anche, essendo una ragazza molto insicura, che ha un pochino di bassa autostima, per una volta voglio darmi anch'io qualche merito, ecco. Certo. Quindi mi voglio ringraziare per essere riuscita a fare questo passo che a me sembrava enorme. Quindi ho accantonato la paura e ho preso il coraggio, e anche la passione soprattutto per la musica mi ha portato a fare questo passo in più, ecco, che secondo me era fondamentale, certo, in questo periodo della mia vita, ecco. Allora, Laura, Radio Cooperativa ti ringrazia, e soprattutto il sottoscritto ti ringrazia di aver partecipato alla mia, nostra trasmissione. Rimaniamo in contatto, noi magari domani ti chiamerò anche per salutarti personalmente in qualche orario, se non sei troppo impicciata. Sì. Ho i tempi stretti. Sì. Ecco, e ci risentiremo presto tramite Andrea. Nel frattempo, se hai novità, la nostra pagina, il mio telefono è a disposizione, uno squillo, e noi siamo qui per la musica, soprattutto per la musica, anche per altro, ma soprattutto per la musica emergente. Sai che il tuo brano poi andrà la settimana prossima in rotazione per due volte, e in più alla notte, e poi anche altre volte andrà in rotazione qui a Radio Cooperativa. Va bene, grazie mille, ti ringrazio. Ciao Laura, grazie a te. Ciao, buona vita. Buona Laura. Ciao, ciao, ciao. Io non mi volto, aspetto ancora il sole, milioni di passi, non mi stancherò mai, porto in braccio i sogni miei, io ci credo ancora e perdono ogni cosa adesso, senza più un compromesso, e riparto da qui. Alla pace che non ho avuto mai, ritorno in scena come gli eroi nel vento dell'aurora, e perdono ogni cosa adesso, senza più un compromesso, e riparto da qui. Parto adesso sulle ali di ogni lacrima questo.